Il punto di Stefano Folli. C'è un punto che unisce Bersani e il PDL, il partito di Berlusconi, che in questa occasione parla attraverso Alfano: l'impossibilità di dire sì a un governo Monti dopo le elezioni. Nessuno dei due maggiori partiti può accettare il Monti bis in questa fase. Ora che comincia la campagna elettorale occorre legittimarsi davanti agli elettori. Vorrebbe dire rinunciare alla propria identità, almeno secondo un certo schema tradizionale. Perché, come dice Bersani, il premier lo scelgono gli italiani e non i banchieri. Diverso il caso di Casini, che è sempre stato a favore di Monti e continua a esserlo con coerenza. In sostanza si sta creando un doppio mercato, chiamiamolo così, il mercato politico italiano, che va avanti secondo i suoi rituali, con una certa dose di debolezza, di impaccio, e non senza una qualche demagogia ben distribuita. E poi c'è il mercato politico istituzionale costituito dall'Europa, dagli organismi dell'Unione, dai nostri maggiori partner. Costoro la loro scelta l'hanno già fatta, vogliono che l'Italia continui sulla strada intrapresa e vogliono che ci sia Monti come garante. I due mercati per adesso vanno in parallelo e sarà così ancora per molto tempo, fino alle elezioni, il che naturalmente presenta e presenterà parecchie incognite.